24 di Giovanni Minoli. In un tempo di crisi, le famiglie italiane hanno visto crescere i propri risparmi. Le famiglie si stanno paradossalmente arricchendo. Questa è una canzone di protesta. Secondo gli ultimi dati sulla povertà, sull'esclusione sociale diffusi dalla Caritas, sarebbero 1,5 milioni le famiglie che vivono nella povertà assoluta. Ricchi e poveri è lo stesso. Per la prima volta dopo 5 anni, nel 2016, migliorano le stime relative al giudizio delle famiglie sulla soddisfazione per le condizioni di vita. Quadro positivo, quello delineato dai dati Istat. Gli italiani ricominciano a consumare. Il 2016 è il primo anno in cui il giudizio di soddisfazione si riavvicina ai livelli di un lustro fa. Le cose giuste tu le sai. Buongiorno, bentornati a Mix24. Se da un lato i dati dell'Istat hanno registrato un incremento leggero della soddisfazione da parte degli italiani e una maggior propensione al consumo, dall'altro l'abbiamo sentito. Secondo la Caritas, invece, sono 1,5 milioni le famiglie che vivono nella povertà assoluta. Insomma, ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. In un momento come questo di crisi globale e di fortissimi cambiamenti politici, la forbice tra povertà e ricchezza è destinata ad aprirsi sempre di più. Ecco, Alberto Quadro Curzio, economista, presidente dell'Accademia Nazionale del Lincee. Professor Quadro Curzio, buongiorno. Buongiorno. Senta, il mondo non è mai stato così ricco da una parte, ma nonostante questa ricchezza, la povertà si sta diffondendo proprio in Occidente. Quindi la forbice è destinata ad aprirsi sempre di più. È così? Ma è certamente così, e se prendiamo i dati delle Nazioni Unite che hanno fissato tra gli obiettivi del 2030 raggiungere una serie di risultati che rendano il mondo più sostenibile, 7 persone su 10 vivono in paesi dove la diseguaglianza del reddito ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 30 anni. Detto in altri termini, l'1% più ricco della popolazione mondiale possiede più della metà della ricchezza complessiva. Ecco, ma questo, che evidentemente è contro il senso comune. Assolutamente. Ma questo è evidente anche in ceti sociali che prima avevano invece delle caratteristiche di qualità della vita abbastanza buoni. È effetto della globalizzazione questo? Io credo che più che la globalizzazione sia stata la finanziarizzazione, che è un aspetto particolare della globalizzazione, e cioè il soverchiante ruolo, potere e dimensione della parte finanziaria del sistema economico mondiale sulla parte dell'economia reale, fatta di beni e di servizi, che evidentemente comporta un maggior coinvolgimento del fattore lavoro e anche una migliore distribuzione temporale del benessere. La ricchezza finanziaria si può creare, si può distruggere nel giro di pochi minuti e di pochi secondi, ed è concentrata evidentemente nelle mani di un nucleo di pochissimi soggetti. Ecco, sì. Professor Quadro Curzio, i super ricchi, secondo stime che sono da considerare prudenti, hanno dirottato nei paradisi fiscali 32 trilioni di dollari. Ecco, come si può definire questo fenomeno? Ah, è difficile dare una valutazione quantitativa. Se fosse quella dei 32 trilioni, certamente si tratta di cifre enormi, sarebbe circa largo poco meno della metà del PIL mondiale. Segnalo però che si è creato un fatto ancora più eclatante, non per togliere un giudizio negativo su quello che lei ha citato. La ricchezza mondiale finanziaria, esclusi i cosiddetti derivati, che nessuno sa esattamente quanti sono, siano, esatto, è circa 4 volte il reddito mondiale. Quindi significa che noi siamo sommersi da una nube, una valanga di carta sostanzialmente, di cui nessuno conosce né la destinazione, né il valore, né l'incidenza che può avere sulla vita reale delle persone. Io credo che, detto in termini semplificati è proprio così, è il fatto che negli ultimi 15 anni il divario tra quello che io chiamo reddito reale, cioè il PIL mondiale, e il totale della ricchezza finanziaria sia andato continuamente aumentando, dimostra che la globalizzazione ha avuto due caratteristiche: quella dell'economia reale, che di per sé ha contribuito assai anche a far diminuire la povertà su scala mondiale, e quella dell'economia finanziaria, che crea una enorme instabilità avendo raggiunto queste dimensioni sostanzialmente incontrollabili. Ecco, ma ci sono strumenti ancora, sono strumenti per affrontare questo problema, oppure è qualcosa che sfugge e che uno può solo aspettare la catastrofe? No, io penso che passi in avanti siano stati compiuti, e tuttavia credo che ci siano delle differenze marcate tra paese e paese. Guardando all'Europa, parte del mondo che io conosco meglio, devo dire che il tentativo di rimettere in carreggiata un'economia reale forte c'è stato ed è tuttora in corso. Sì, e anche di porre nei confronti dell'economia finanziaria delle regole che la riconducano più all'interno di quella che noi chiamiamo l'economia bancaria, che certo, ha una sua fisiologia rispetto importante a quella naturale, a quella reale, certo. Esattamente. Ecco, ma la povertà, per esempio, qui in Italia ha un volto nascosto e dei numeri incredibili. Abbiamo detto, secondo l'Istat, nel 2015 ci sono oltre 4 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta e oltre 8 milioni di persone che sono in condizioni di povertà relativa. Che cosa significa un assoluto e relativo in questo caso? Ma gli indicatori di povertà sono obiettivamente molti. Per esempio, Eurostat sceglie come indicatore di povertà la caratterizzazione in termini di reddito inferiore alla media della Unione Europea. Quindi praticamente chi sta sotto un certo livello rispetto alla media dell'Unione Europea cade sotto la soglia di povertà. Detto in termini più chiari ancora, se siamo sotto il 60% del reddito medio disponibile nazionale, si va a finire in soglia di povertà. Ecco, paradossalmente però la povertà non è solo legata alla disoccupazione, ma anche a chi ha un lavoro oggi può avere gravi problemi economici e può essere considerato povero. Una volta c'erano le gabbie salariali, potrebbero essere una soluzione ancora? Ma io credo di no. Io credo che la povertà sia, come peraltro gli indicatori evidenziano, un elemento unificante di una serie di altri elementi. Certamente quello occupazionale e quello del reddito è molto significativo. Un altro elemento che a mia valutazione è molto significativo è avere un senso di stabilità nel lavoro, che non vuol dire avere la garanzia del posto di lavoro, ma l'idea di poter lavorare comunque. Esattamente, di avere una prospettiva di, non dico di sicurezza, ma quantomeno di fondata speranza che il posto di lavoro uno se lo perde lo ritrova. Esattamente, il passaggio di mobilità e la tensione del mercato del lavoro nel senso di crescita dell'occupazione, che consenta anche di cambiare lavoro senza vivere dei lunghi periodi di disoccupazione, certo, e quindi di angoscia e quindi di caduta in quella situazione che poi comporta una serie di conseguenze anche familiari tutt'altro che secondarie. Ma professor Quadrio Curzio, lei pensa che il reddito di cittadinanza possa essere una soluzione, una risposta politica? Ma io penso che la vera risposta a tutto ciò sia rilanciare l'occupazione e soprattutto l'occupazione giovanile, perché credo che non c'è null'altro che possa sostituire la capacità del lavoro e la fiducia del trovare lavoro attraverso misure di crescita economica. Per fare un esempio, Io credo che l'Europa debba e possa rilanciare tutto un meccanismo di investimenti infrastrutturali, certo, che hanno una potenza enorme nel trascinare lavoro, e oggi trascinerebbero anche il lavoro dei giovani che normalmente hanno una qualificazione professionale più alta delle persone anziane. Quindi dare occupazione ai giovani è il vero reddito di cittadinanza. Ecco, Papa Francesco ha dato un nuovo impulso al dibattito sulla povertà, ma secondo lei quanto pesano queste esternazioni? Sono solo una testimonianza morale o hanno degli effetti pratici, politici? Ma io credo che il Papa, come personalità importanti, con le loro esortazioni incitano, danno degli orientamenti a chi ha il potere istituzionale, sociale ed economico di tradurre in operatività le esortazioni medesime. È chiaro che tutto l'insegnamento sociale cattolico, ma non solo quello, certo, ha uno scopo specifico, quello di dare degli orientamenti e non di fornire delle soluzioni, ricette concrete, certo, certo. Orientamenti. Ecco, ma i movimenti populisti hanno avuto il loro carburante dall'aumento della povertà, naturalmente. Io credo che l'abbiano avuto, ma credo anche che molte volte propongano delle ricette eccessivamente semplificate e semplificanti. Il mondo di oggi, in Italia come in Europa, è un mondo complesso. Tutti noi vorremmo poter risolvere i gravi problemi che ci affliggono o che affliggono le persone più vulnerabili con un tocco di bacchetta magica. Beh, non è così. Non è così. E quindi bisogna capire che le istituzioni hanno delle loro regole, sono regole che vanno condivise in Europa tra vari paesi, che il lungo periodo è il percorso più sicuro per raggiungere dei buoni risultati. Senta, il breve periodo spesso brucia le soluzioni. Brucia le soluzioni. Ecco, professore, ancora una cosa. I popoli contro l'elite è il discorso che si fa adesso, dopo le elezioni di Trump, e si interpreta spesso come un primo segnale nella direzione di questa lotta in nuce fra queste due anime della società. Lei vede questa dimensione, questo rischio? Beh, io ritorno al discorso iniziale. È chiaro che negli ultimi 20 anni il funzionamento del sistema mondiale economico è cambiato e si è creata questa prevalenza della finanza. E questo ha in qualche modo creato una reazione di chi è fuori da quel meccanismo, e certo, sono molti, sono quasi tutti a maggioranza, e tuttavia vede che altri vivono dentro in quel meccanismo, se ne avvantaggiano e in qualche modo in taluni paesi esercitano anche una grossa influenza sul potere politico. Certo. Non è l'Europa, non è l'Italia questo caso, ma certamente io credo che in parte negli Stati Uniti sia successo. Il fatto che abbia vinto Trump non so come possa essere interpretato se non come una reazione a tutto ciò, e nella scelta evidentemente hanno pensato che questo candidato fosse meno vulnerato o vulnerabile rispetto al potere finanziario che potesse influenzarlo. Certo, più imprenditore che finanziere, insomma, diciamo, ecco. Più immobiliarista che certo, finanziere, e poi sta a vedere com'è poi la realtà, si vedrà, che io non giudico. No, grazie professore. 800 24 00 24 per gli sms, 349 238 6666 per gli sms, appunto. Mario, ecco. Insomma, prima c'era la lotta di classe, adesso ricchi contro poveri, come si può definire? Poveri contro poveri, anche perché l'erosione della middle class è abbastanza evidente, e poi secondo me alla finanziarizzazione si associa il problema del cosiddetto market cap, cioè della capitalizzazione delle aziende, soprattutto delle aziende tecnologiche. Faccio un esempio molto pratico, sì. Sto facendo uno studio su questo. Eh, Google ha 61.814 dipendenti, questo è l'annual report. C'è nessuno. Aspetta, è 552 miliardi di capitalizzazione. Sì. General Motors, 215 mila dipendenti, 50 miliardi di capitalizzazione. Dov'è l'errore? Cioè, qual è il valore sociale di un'azienda come Google, che ha appunto quel numero di dipendenti, rispetto a General Motors, che ha invece quell'altro numero? Tu stai dicendo che l'economia digitale produce ricchezza per pochi, ma non lavoro per tanti. È così, tant'è che è una delle grandi delusioni o illusioni di questi ultimi anni. E infatti la vittoria di Trump nasce proprio... sul recupero del consenso, come dicevamo prima col professor Curzio, del lavoro, poi di chi lavora. L'altro grande problema è la Cina, gigantesco. Ho incrociato i dati, ho fatto una ricerca sui dati dell'ingresso della Cina nel mercato globale correlati al calo dei lavoratori nella manifattura negli Stati Uniti, ed è mostruoso. È un calo drastico di lavoratori negli Stati Uniti legati a favore della Cina. Però anche se stanno rientrando, no? un po' di reshoring, cioè, sì. Aveva cominciato Obama in maniera timida, sì. Vediamo cosa fa Trump. Aziende. Ecco Pietrangelo al telefono, perché non sta tanto bene, però lo ringraziamo della sua disponibilità. Ecco Pietrangelo, ma quanto conta? Si rischia una sorta di guerra civile secondo te su questo scenario? Tanto sì, siamo già in pieno dopoguerra, non so se la guerra è civile o meno, comunque i popoli dell'opulenza, per usare il linguaggio di Giovanni Paolo I, non riescono più a capire quelli della fame. E quello che si è verificato adesso, già per esempio con le bombe migratorie che hanno portato al collasso del continente europeo, con tutte le popolazioni che dal Maghreb e dal Medio Oriente arrivano nella forma dei profughi, vengono a trovare un mondo che somiglia a quello da cui sono scappati, se non per le bombe, se non per le stragi, se non per la violenza. Somigliano nel senso che si ritrovano in una dimensione dove non è certo la ricchezza che abbacinava come quando arrivarono i primi albanesi, certo. Adesso si ritrovano in un paesaggio perfino spettrale, basti camminare nelle periferie delle metropoli d'Occidente per verificare come la povertà ormai sia diventato l'abito che accompagna le giornate. E noi non abbiamo neppure più la capacità di poter immaginare e analizzare il futuro, perché c'è la latitanza della politica rispetto a tutto ciò. La finanziarizzazione non ha altro significato che quello di affidare le decisioni a chi vuole soltanto il profitto per se stesso e non certamente per realizzare, non produce ricchezza, che ma accumula ricchezza al proprio popolo. Certo. Qui diceva tutto un verso di Ezra Pound: finita l'epoca dei re, comincia quella dei banchieri. E i re erano comunque la politica, la città, il banchiere è soltanto la banca, cioè il denaro, e non ha nessuna intenzione di riconoscere nel prossimo né la carne né il sangue, tantomeno lo spirito. E intanto i poveri nelle grandi città come Roma, per esempio, sono sempre di più, l'abbiamo detto, e come da sempre avviene, chi se ne occupa prevalentemente è la Chiesa, in particolare le chiese di quartiere, che hanno una funzione sempre più grande. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di Padre Franco, il parroco di una delle chiese del centro di Roma. Ecco, Padre Franco, anche in centro la povertà avanza? Io sto a Santa Lucia del Bonfalone. In questa chiesa, da diversi anni, da circa 20, aprendo la porta e dando l'opportunità alle persone di venire, di parlare, insomma, ho scoperto un mondo molto ampio di persone che hanno difficoltà, e tutto, diciamo, comincia quando si perde il lavoro. Perdendo il lavoro non sei più in grado di pagare la casa, non sei più in grado di mantenere gli impegni fondamentali, cominci per la strada, i centri, i pellegrinaggi continui. Ecco, diciamo, un osservatorio per dare uno sguardo ad un mondo che non è del centro, ma si riversa al centro. Viene da fuori e arriva in centro? Sì, diciamo a due livelli, un po' da fuori, inteso come altri quartieri, e si riversano dove la porta si apre, non cioè tanto si sparge la voce che ci sono dei luoghi in cui si apre la porta a chi sta male, insomma. Ecco, sì, dove si crea una relazione, questa relazione è capace di, in un primo tempo, magari di far conoscere i bisogni, le i vuoti, le piccole disperazioni, e dall'altra magari al momento opportuno qualche piccolo trovare calotto, qualche piccola solidarietà. Qualche piccola solidarietà. Padre Franco, sì. Voi avete insomma un modo concreto anche di aiutare le persone che entrano in questa porta aperta, è quello di avere una mensa, no? Settimanale, sì. O quasi. Non... Sì, in effetti la possibilità di mangiare a Roma è molteplice, voglio dire in molti posti, però noi avevamo scelto l'idea di fare un pranzo conviviale settimanale, la domenica. Quindi io ho visto che quello è un punto determinante di accoglienza, cioè... Perché oltre a mangiare si crea una dimensione di rapporto diverso. Sì, di rapporto diverso, di conoscenza più umana, più, diciamo, più aperta, ecco. Perché si crea una relazione, non dico di amicizia perché ci vuole tempo, certo, comunque di fiducia reciproca. Ecco, ma padre Franco, lei ha notato un cambiamento di chi cerca questa assistenza? Insomma, c'è una realtà di nuovi poveri diversi anche sociologicamente, antropologicamente? Sì, io lo noto per una piccola parte, cioè certo. Delle persone che magari 5-10 anni fa non avresti mai pensato che potevano venire ad un centro di ascolto, oggi li trovo. Li trovo perché o la pensione non è sufficiente, o il lavoro l'ho perso, problemi familiari, diciamo, quindi c'è un nuovo volto, per lo più italiano. Nuovi poveri italiani, insomma. Sì, sicuramente. E sta peggiorando a vista d'occhio questa situazione, oppure è lento il peggioramento? Dal punto di vista suo, naturalmente. Dal mio angolo visuale io lo vedo, ma non così precipitoso, quasi gradatamente ma inesorabilmente, perché speri, perché ti dai da fare e poi non arriva la soluzione giusta. Ecco, il Papa che dice aprite le vostre chiese, insomma sì. Questa è la sua strada, mi pare, no? Io credo che sia la strada evangelica più giusta, perché alle volte anch'io mi chiedo, ma in effetti se fossimo di più, e sono già tante, a Roma è una città, diciamo, fondamentalmente come chiesa solidale, però la domanda è oltre, diciamo, le nostre piccole porte, per cui... E un'altra cosa che io vedo sono gli stranieri, i quali subiscono, diciamo, piccoli furti tra di loro, documenti, c'è un mondo di poveri che rubano altri poveri e diventa una ferita quasi sempre aperta. La povertà stimola anche una generosità maggiore intorno a lei o no? Da parte di tanti c'è una sensibilità pronunciata, io credo, perché tutti si rendono conto che non è uno spettacolo, è qualcosa di vero, di profondo. Cioè è più difficile tenere gli occhi chiusi? È più difficile tenere gli occhi chiusi, senz'altro. Però è anche vero che finché non si supera la paura, cioè il povero in fondo è uno dal quale difendersi, sì. E se non si fa il passaggio, voglio dire, difendere i poveri o difendersi dai poveri, insomma sono i due campi nei quali uno deve scegliere dove stare. Per chiudere, padre Franco, intorno a lei sente la presenza della politica in questa... Non dico in questa lotta, ma almeno in questo tentativo di condividere il dolore di chi soffre. Le istituzioni senz'altro sono vicine, cioè assistenti sociali, pronto soccorso, il pronto intervento della strada quando ci sono casi limiti. Però la politica, per la verità, non la percepisco. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Beh, una testimonianza calda, intensa, questa di padre Franco, Mario. Sì, mi ha colpito la parola gradatamente, le due parole messe insieme, gradatamente inesorabile. Secondo me l'economia, l'ortodossia economica è saltata, Giovanni. Guarda, ti ripeto, sto leggendo parecchio in questo periodo e secondo me tutti i dogmi sul quale è stata costruita negli ultimi 35 anni di sviluppo dell'economia stanno cadendo uno per uno. Certo. E non si vede il nuovo orizzonte anche. No, io non sono un pessimista di natura, però no, francamente c'è grande difficoltà nei paesi, i cosiddetti paesi a economia avanzata. Se noi pensiamo che un paradiso come la Svezia, no? Dipinto come tale, ha chiuso tutte le sue frontiere improvvisamente, dopo aver accolto ogni anno 1 milione di profughi, per dire. E questo ti dà il segno di tutto. Che non ci sono le ricette. No. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Siamo a meno 6 giorni dal referendum costituzionale, il dibattito è sempre più acceso e noi ascoltiamo le ragioni dei favorevoli e dei contrari. Sì o no? Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte. Ecco, presidente, lei è per il sì al referendum. Perché? Perché mi sembra che si faccia complessivamente un passo in avanti nell'ammodernamento del sistema istituzionale italiano e si stia in una logica che vede i principali paesi europei con assetti istituzionali simili. Ricordo che l'Italia è uno dei pochissimi paesi che ha 2 camere che fanno lo stesso lavoro. Ecco, ma qual è il punto più qualificante del suo sì? Esattamente questo, che si supera il cosiddetto bicameralismo perfetto e si crea un Senato che è il Senato delle autonomie locali, che fungerà da raccordo fra il centro del potere del paese e le autonomie regionali, locali, le città metropolitane. Ecco, e qual è la ragione del no che le sembra interessante, sulla quale si potrebbe lavorare? Ma guardi, sempre su questo tema del rapporto fra centro e periferia, io credo che andrà riaffrontato il tema del rapporto tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. Poi ci sono delle questioni sulla distribuzione dei poteri che, secondo me, anche in rapporto all'evoluzione della società su cui bisognerà tornare. Senta, ma crede che alla fine si riuscirà a trovare un accordo sulla legge elettorale? Ma c'è un impegno politico preciso di Renzi e del PD. Troverei strano il contrario. Io credo sia anche abbastanza agevole trovare una strada che garantisca insieme quel principio maggioritario indispensabile per governare e decidere e quei principi di proporzionalità che servono a garantire un'inclusione della democrazia. Quindi è fiducia. Mattarello, a un'ipotesi tipo il vecchio Mattarello, un cosiddetto vecchio perché ormai ha 20 anni, sì, circa, quello in cui si elegge una parte maggioritaria del Parlamento in collegi uninominali e poi lo si completa con collegi proporzionali territoriali, a me sembra un sistema che con le opportune modifiche tecniche potrebbe funzionare. Sì o no? Sì o no? Sì o no? Tommaso Montanari, docente di storia dell'arte moderna all'Università Federico II di Napoli. Ecco, professore, perché no? Perché non si fanno le riforme della Costituzione a maggioranza e non le scrive il governo, la Costituzione deve garantire tutti. Nel 95 Napolitano fece una proposta di legge dicendo che non si possono fare le riforme a maggioranza perché questo abbatte il pilastro principale del costituzionalismo moderno. Detto in altri termini, in una democrazia evoluta e moderna le regole devono essere fatte col consenso di tutti. Ecco, qual è il punto più qualificante del suo no? È il fatto che questa riforma tende a ridurre gli spazi di democrazia. Il Senato rimane, ma non viene eletto più dai cittadini, alle regioni viene tolto il potere di decidere sul futuro dei loro territori, in generale le minoranze, le opposizioni e in generale tutti i cittadini hanno meno voce, si prosciuga lo spazio del dibattito parlamentare, democratico, sembra quasi che siamo malati di troppa democrazia e io non credo che questo sia il nostro problema. E qual è la ragione del sì invece che le sembra interessante, sulla quale si potrebbe lavorare? C'è un'aspirazione a cambiare, questa aspirazione è un'aspirazione preziosa che non va demonizzata, il problema è come cambiare, in che direzione andare. E io credo che questa riforma in realtà, come dire, costituzionalizzi lo stato delle cose, fotografa la realtà e toglie la possibilità di cambiare, quindi l'aspirazione è giusta ma il risultato sarebbe esattamente l'opposto. Alla fine, secondo lei, professor Montanari, si riuscirà a trovare un accordo sulla legge elettorale? Io credo che lo si dovrà trovare per forza, perché prima o poi dovremo pur votare. Credo però che il 4 dicembre voteremo con l'Italicum come legge dello Stato, su cui questo governo ha chiesto la fiducia, e francamente non mi fido del fatto che cambierà. Se vincesse sì, non cambierà. L'unico modo che abbiamo per cambiarlo, a parte la Corte Costituzionale, che però è sovrana e farà quello che ritiene giusto, è votare no. Sì o no? Vabbè, Pietrangelo, dal tuo letto di dolore, cosa ci fai ascoltare oggi? Arriva. Two hearts beating like a flower, and all this waiting for the power, for some answer. Sì. Grande dolore oggi, Pietrangelo, mamma mia. Perché il vento oggi è arrivato spinto dai desideri, prepotente, si è portato ovunque, è arrivato dentro i cassetti e nelle tasche delle giacche abbottonate. Poi è sorto il sole e il vento ha voluto mettersi gli occhiali scuri. Ha telefonato e ha chiamato me, Ferdinand Porsche. Ha voluto questo brano per Leni Riefenstahl con un messaggio: andiamo via col maggiolone? Lui non ce la fa oggi. Mario, c'è una bolla? Sì. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby. Pensa a te. Vabbè, allora Giovanni, che succede? Vabbè, oggi è una giornata di big data, come suol dirsi. Escono i numeri della produzione industriale in Spagna, in Francia, è uscita adesso la Francia, più 0,2, poca roba, non se la passano bene anche i francesi. La Spagna non è ancora uscita, non l'ho ancora visto, però saranno anche quello, buoni. Solitamente sono buoni, se confermano la tendenza dovrebbero essere buoni. Svezia, vediamo, Grecia è un dato di conferma in realtà, però insomma i dati sull'inflazione in Germania, che dovrebbero essere bassi da quel che vedo, numero di mutui sottoscritti nel Regno Unito, importanti per vedere se ci sono impatti della Brexit sul mercato immobiliare o no, l'indice complessivo di fiducia in Europa, anche quello importante, e un'altra cosa che non è Unione Europea ma ovviamente è un vicino importantissimo, sono i dati degli arrivi turistici in Turchia, certo, che segnaleranno lo stato di salute di quel paese, non solo economico ma anche politico naturalmente. Dopo vabbè, il domani colpo parleremo di stato. Quando usciranno tutti i dati li valuteremo. Intanto Salamino. La storia non si fa con i se, il futuro però sì, e se dovesse vincere il no, una spalla su cui appoggiarsi e piangere, Matteo Renzi ce l'ha. Musica. La spalla non è quella di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica è troppo democristiano per resistere alla volontà del todo modo. Non è neppure quella di Hillary Clinton, troppo giù di corda tra le forche del riconteggio elettorale. E neppure Renzi può piangere sulle spalle dei fedelissimi, quelli per convenienza, per opportunismo e conformismo. Se vince il no, per Matteo Renzi è pronto, pare già di sentirlo. Che? No, è dai. Pronto il calcio dell'asino. Ma se il 4 dicembre vince il no, il giorno dopo Renzi trova D'Alema a difenderlo e sarà sulla spalla del leader massimo che il rottamatore potrà piangere. Quando Bettino Craxi cadde, ricorda D'Alema a un'assemblea del Partito Democratico in Molise, mentre molti suoi fedelissimi si avventavano su di lui come cani pur di salvarsi e di rifarsi una verginità, toccò a me, dice ancora D'Alema, di difenderlo. E la cronaca di Tommaso Labate sul Corriere della Sera riferisce che D'Alema, da Presidente del Consiglio, tentò anche una trattativa umanitaria con la Procura di Milano quando Craxi stava per morire. Non riuscì. Molti, ricorda D'Alema, oggi sono renziani per opportunismo, per convenienza e conformismo, ma qualcuno sta già prendendo appuntamento con me. Bisogna riconoscere che D'Alema, colto da malinconia, ha ammesso di essersi amareggiato per il distacco dei suoi. Tutti i suoi Lothar, li ricordate? Giovanni, Mario, il gruppo dei Lothar. Benissimo. Quali Fabrizio Rondolini, Nicola Torre, Gianni Cooper, Marco Minniti, sono tutti Correnzi. Anche Matteo Orfini è Correnzi. Ovviamente questo povero Renzi non possiamo definirlo di sinistra, non posso che sottoscrivere la definizione che ha dato D'Alema nell'assemblea del PD in Molise, perché non era di sinistra come Bettino Craxi, anzi tutto il contrario. Ma D'Alema, se vince il no, consolerà comunque Matteo, il quale di certo ha già chiesto con Ornella Vanoni l'appuntamento. Accettare questo strano appuntamento è stato... Pietrangelo, non hai nessuna opinione se vince il sì, però, perché c'è come anche sempre quell'ipotesi, hai capito? Non sappiamo D'Alema se vince il sì. Matteo Renzi a far piangere D'Alema sulla sua spalla. Quello però è già capitato. Perché, come ha detto a te, Renzi, lui è cattivo. Ah, va bene, invece D'Alema è buono. Invece D'Alema è buono e noto. Sono buonissimi, buonissimo D'Alema. L'ho incontrato ieri per strada, era molto gentile. Mi ha salutato. Allora, Mario, c'è ancora una bolla? Sì, la curiosità. Springsteen. Vabbè, a cantare funziona. Allora, rapidissimo, il 24 di questo mese è uscito un comunicato del Tesoro molto, molto interessante, che dice che in considerazione dell'ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento, le aste dei titoli a medio e lungo termine previste per il giorno 13 dicembre 2016 non avranno luogo. Quindi diciamo che il governo italiano improvvisamente per quella data non emette debito. È un puro caso, va da sé che qualche giorno prima, cioè il 4 dicembre, ci sia il referendum. Come dire, niente aste, ripariamoci, niente aste, un po', apriamo l'ombrello. Peccato che sia uscita con un po' di indifferenza. 800 24 0024, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Mix 24. 1861, Unità d'Italia. 78 italiani su 100 non sanno né leggere né scrivere. Dopo 50 anni, all'inizio del secolo, l'analfabetismo è già sceso al 46%. Sono gli effetti della scolarizzazione che parte dalle città e arriva alle campagne. Con la nascita della Repubblica, la scuola si pone un nuovo obiettivo. Non solo superare l'analfabetismo, ma anche diffondere una nuova cultura di base per tutti. Tra il 60 e il 70 il sistema scolastico viene travolto dal cambiamento che investe tutta la società. Sono gli anni della contestazione. Don Lorenzo Milani, prete cattolico del dissenso, nel 67 pubblica Lettera a una professoressa. È una denuncia dei pregiudizi di classe del sistema educativo italiano. Di questo libro devo dire in generale tutto il bene possibile. Non mi è mai capitato di essere così entusiasta di qualcosa e di sentirmi così, in un certo senso, obbligato, costretto a dire agli altri leggetelo, perché oltretutto è un libro che riguarda sì la scuola, ma nella realtà riguarda la società italiana, la qualità di vita italiana. Poi arrivano gli anni 70 e la democratizzazione del sistema scolastico, con l'introduzione degli organi elettivi di docenti, genitori e studenti. Dagli anni 80 a oggi sono multiculturalità, integrazione e didattica digitale le nuove sfide della scuola italiana. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, giugno 2016. Effetti della restrizione calorica sull'umore, la qualità della vita, il sonno e la funzione sessuale in adulti sani e non obesi. La restrizione calorica, cioè mangiare di meno, in quantità significativa, si parla del 25% in meno della normale assunzione di cibo, si è visto che aumenta la longevità in molte specie. Ancora non si sa bene se nell'uomo questa restrizione calorica permetta lo stesso aumento di longevità, anche perché poi è complicato sapere esattamente gli anni in cui bisogna provvedersi con la restrizione calorica, perché forse da troppo piccoli probabilmente è sbagliato, da molto anziani lo stesso, quindi ancora i ricercatori stanno studiando. Certo è che si è voluto studiare in questo articolo se ci possono essere effetti negativi nella restrizione calorica, in un'osservazione che in questo caso è stata di 2 anni su un gruppo di 220 adulti tra i 20 e i 50 anni, divisi in un gruppo che era libero di mangiare qualsiasi cosa volesse e un secondo gruppo che invece era costretto ad assumere il 25% in meno della normale assunzione di alimenti. Che è successo in questi 2 anni? Coloro con la restrizione calorica sono diminuiti di oltre 7 kg verso nemmeno mezzo chilo di quelli che erano ovviamente liberi di mangiare qualsiasi cosa. Ma coloro in restrizione calorica avevano un miglior tono dell'umore, una miglior salute in generale, una migliore attività sessuale e delle relazioni affettive e un aumento della durata del sonno. Quindi, amici, mangiare un po' di meno intanto aiuta la qualità della vita in generale. Non so ancora dirvi se vi dà maggior longevità, però forse vale la pena provarla. Beh, prima di Natale mi sembrava utile come consiglio quello del professor Bernabei. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ci propone oggi? Oggi lo so che domani tu mi lascerai e in più non tornerai, ma è la stagione dell'amore, Franco Battiato. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai.